24 mattino. I ragazzi a casa sono distratti da TikTok, YouTube, è un disastro, non li puoi lasciare soli 5 minuti, che 20 minuti di fila sul monitor non li fanno, non li fanno. Ma obiettivamente questa polemica qui in ordine cronologico chi è che l'ha creata? La famosa petizione dei 7 sindaci di centro-sinistra nei vari capoluoghi di provincia, Mantova, Milano, Cremona, Brescia, Lecco, ma chi è che l'ha creata? Io sinceramente inizio a non capire più questi appelli restate a casa e queste ammonizioni, c'è troppa gente in giro quando i dati del Viminale ci dicono che soltanto il 3,8% dei controllati ha trasgredito le ordinanze, tenendo presente che dentro a questi ci sono anche trasgressioni veramente per 100 metri. Se noi avessimo veramente soltanto il 3,8% di evasori fiscali o il 3,8% di persone che, che non fa la raccolta differenziata, saremmo un grandissimo paese. Oh, lo diciamo sempre questo, e ha perfettamente ragione il nostro ultimo ascoltatore. I segnali che raccogliamo dal Viminale, i dati che raccogliamo dal Viminale sono dei dati in realtà che dimostrano che siamo stati in questa occasione, siamo in questa occasione un popolo estremamente ligio alle regole. Quasi inaspettatamente, viene da dire, rispetto a quello che siamo abituati a dire di noi stessi. Sì, i dati del Viminale confermano questo. Quindi, evidentemente, chi è in giro ha il diritto di stare in giro. Poi, ripeto, qualche assembramento si è visto da qualche parte, però, tutto sommato, poca roba. Oh, sulla questione delle polemiche tra lo Stato, le regioni, devo essere franco, poco mi interessa chi ha iniziato. Abbiamo stigmatizzato in parte, pur avendo ospitato poi il sindaco di... Il sindaco di Cremona, abbiamo stigmatizzato in parte l'accendersi di questa polemica. Diciamo che hanno iniziato tutti, nel senso che lo ha fatto il presidente della regione Fontana accusando il governo, lo ha fatto il governo facendo trasparire un'irritazione nei confronti di Fontana, lo hanno fatto i sindaci legati al centro-sinistra, prendendosela con la regione per tutta una serie di cose. Io direi francamente che, ripeto, c'è una questione che ha a che fare con lo scaricabarile, non la ricostruzione delle responsabilità. La ricostruzione delle responsabilità è una cosa che può essere fatta almeno in parte anche in corso d'opera, almeno così credo. Detto ciò, insomma, la parte nella quale ognuno scarica la responsabilità sull'altro è un po', in tutta sincerità, è un po' irritante. Ci vogliono dati, fatti, e sui dati e sui fatti andremo a ragionare e lavorare. Oh, sulla scuola, beh, insomma, sì, è vero, insomma, una parte estremamente attenta, come ci diceva poco fa il presidente dell'associazione Presidi, e una parte dei ragazzi invece si distrae costantemente. È vero anche, le potrà rispondere qualsiasi insegnante, che non è che in classe stiano attenti per tutti i 50 minuti, salvo una sparuta minoranza. E quindi forse anche la videolezione in questo caso può andare bene, lo studio a casa, forse in certi casi può essere anche un po' più concentrato. Di certo siamo nella condizione che ci viene raccontata dall'Istat ieri, con una serie di famiglie che sono addirittura senza tablet e senza computer. Poi qualcuno ci dice e ci scrive: va bene, però tutti quanti più o meno ce l'hanno un cellulare. Sì, è vero anche che seguirsi 3-4 ore di video lezione sul cellulare non è proprio il massimo, forse avere qualche strumento migliore sarebbe più opportuno. Siamo alla seconda parte di 24 mattino, è martedì 7 aprile, sono le 7:22 minuti e 46 secondi e vi aspetto come sempre al 349-238-6666 via WhatsApp per le vostre voci. Fatecele sentire con la parte di 24 mattino dedicata alla rassegna stampa. E i giornali, come potrete intuire, sono ampiamente dedicati al tema economico, ossia alle decisioni prese dal governo ieri, a partire dal Sole 24 Ore, che titola liquidità, 400 miliardi di garanzie alle imprese, da SACE e fondo per le PMI. E a centropagina riporta anche, oggi c'è la riunione dell'Eurogruppo, quella che deve ragionare un po' sugli Eurobond, l'asse Italia-Francia, ci dice il Sole 24 Ore, confermato per titoli europei a lungo termine. Vedremo che cosa ne emergerà. La fotonotizia del Sole 24 Ore ci porta in realtà su una notizia che invece trovate in piccolo su altri giornali, però è interessante perché è uno shopping di un'azienda italiana del settore alimentare all'estero, due grandi marchi, l'Amaro del Capo, che si compra la Petrus, che è un'azienda olandese, e quindi una concentrazione, un'acquisizione del settore degli amari. Come si diceva, molti titoli dedicati alla parte economica, Bazooka Antivirus da 400 miliardi è quello del Quotidiano Nazionale, Imprese Cura da 400 miliardi è quello del Messaggero, Per le imprese 400 miliardi quello del Corriere della Sera. Un po' più polemico il titolo del Giornale, due mesi senza tasse ma sono solo rinviate, la manovra col trucco, sia al decreto imprese, appunto 400 miliardi per la ripresa economica. La Verità, troppi paletti, soldi per pochi, il solito tira e molla, poi a sera il governo approva, salvo intese, il decreto liquidità. Avvenire sceglie di mettere insieme due elementi: garanzie per le imprese, incertezza per la scuola, nel titolo principale. Libero invece ci comunica, e verremo a tutta la questione mascherine tra un attimo, è che lo Stato specula sul virus, IVA al 22% sulle mascherine, visto che è obbligatorio indossarle per uscire, è indegno pagare l'imposta massima così come sui respiratori. E ci verremo tra un attimo questo pezzo di Costanza Cavalli, insieme agli altri pezzi sulle mascherine, ce ne sono di interessanti. La Repubblica. Poveri morti nascosti, finalmente insomma si inizia un po' a far luce su quello che succede, come si diceva, all'interno delle residenze per anziani. Il tema qua è partito dal Pio Albergo Trivulzio e da un pezzo di Gad Lerner, il quale torna a firmare un altro pezzo oggi parlando di occultamento della dignità. Si allarga la vergogna del Trivulzio, il Pio Albergo Trivulzio, con le salme una accanto all'altra, 70 i morti nascosti. Sala parla di una ferita per Milano e si apre l'indagine del governo. Il Fatto Quotidiano e La Stampa invece scelgono di aprire dedicandosi alle imprese e a quello che sta succedendo, perché se La Stampa ci comunica che è corsa alla riapertura e ci sono migliaia di richieste ai prefetti del nord con una protesta da parte dei sindacati, ci arriveremo anche a questo, dall'altra parte il Fatto Quotidiano ci comunica che in realtà già ce ne sono parecchie aperte, 7.000 aziende aperte dove si muore di più, a Bergamo e Brescia ma anche in Piemonte e Veneto, quasi tutti lavorano in deroga e le prefetture non possono fare controlli. Arriveremo anche a questo. Il tema delle mascherine lo troviamo invece in apertura sul Manifesto, smascherato il governatore Lombardo Fontana nella bufera sulle annunciate mascherine per tutti che ancora non ci sono, e poi ancora il tema delle case di riposo. Voglio chiudere questa scorsa, le prime pagine dei quotidiani, con la Gazzetta dello Sport. Vinceremo all'italiana è il titolo principale, perché parla Marcello Lippi, un'intervista a Marcello Lippi, la quale parla di varie cose, si dice convinto che gli azzurri faranno un grande Euro 2021 e Zaniolo sarà come il mio Totti, dice Lippi, ma la notizia interessante è quello che succede intorno a Covid-19, perché in Germania, dove chiaramente c'è un numero di morti inferiore, la situazione è sicuramente diversa, e però si ragiona un po' più seriamente sulla ripartenza. Guardate, il Bayern già si allena, è la prima grande a tornare in campo e insomma è stata istituita una task force sanitaria per far ripartire il calcio già a maggio. Arriveremo anche a questi elementi, però iniziamo da delle cose, per così dire, laterali, ma che laterali non sono. La questione delle mascherine innanzitutto, e va bene, partiamo da Libero e partiamo da Costanza Cavalli, che ci racconta esattamente questo, ossia il fatto che le mascherine alle 20 di ieri sera non risultavano ancora beni di prima necessità, come invece il canone TV tassato al 4% e nemmeno di seconda necessità, come i tartufi, la cui IVA è al 5%, né così importanti da godere dell'aliquota ridotta al 10% come lo sono le carrube, gli spettacoli teatrali, i francobolli da collezione e la cera d'api. Le mascherine, invece, come anche i ventilatori polmonari, sono equiparate al mascara, al calcio balilla e alle motociclette Harley Davidson e, peraltro, non sono nemmeno detraibili. Insomma, qua è Libero a pagina 3 che ci porta su questo tema delle mascherine che sta animando un po' la discussione, perché alcune regioni, lo abbiamo detto, insomma la Lombardia, la Toscana, le hanno imposte nei luoghi pubblici, ma la realtà è che nel consueto delirio italiano ogni luogo ha la sua regola. Ce lo racconta bene il Messaggero a pagina 15 con Lorenzo De Cicco. Per i 10.000 abitanti dell'isola di Procida è previsto non solo l'obbligo di mascherina, ma anche dei guanti almeno per entrare nei negozi. Nel Veneto la prescrizione di coprirsi il viso vale solo sui mezzi pubblici per ora e non all'aperto, anche se qualche città come Treviso ha allargato il campo, mascherina obbligatoria anche in strada, altrimenti multa fino a 500 euro. In Abruzzo il vincolo di bardarsi per uscire di casa scatterà quando partirà la fase 2. In Toscana, l'ordinanza con l'obbligo di dispositivo di protezione individuale è stata firmata ieri pomeriggio, ma entrerà in vigore, ha precisato il governatore Enrico Rossi, quando i vari comuni avranno finito di distribuire le protezioni casa per casa, perché è quello che sta avvenendo in Toscana. Occhio, a Pisa sono in arrivo 45.000 sacchetti, a Firenze si lavora alla distribuzione gratuita di circa 1 milione di pezzi, ognuno ne avrà 2-3 a testa e poi si vedrà. Anche la Sardegna pensa alla stretta. In Friuli, in Val d'Aosta, l'obbligo di mascherina c'è già, ma solo per chi va a fare la spesa. Nel Lazio niente obbligo, ma alla ripresa saranno consegnate scorte a studenti e prof di rientro a scuola. In tutto il Lazio ha ordinato 27 milioni di pezzi. Insomma, come capite, è un vero delirio di regole, e per fortuna non ci si può spostare da comune a comune, perché insomma sennò sarebbe un metti e togli mascherina continua. Per dire, l'obbligo di volto coperto con varie sfumature è stato annunciato ieri a Noto, in provincia di Siracusa, a Ferrara, a Capri, in diversi borghi dell'Umbria, in provincia di Bari, e si è detto di Procida e Treviso. Insomma, come capite, c'è una discreta confusione che riguarda evidentemente anche la regione Lombardia, dove una parte dei pezzi, ad onor del vero, è arrivato nelle farmacie, è in fase di distribuzione, e però l'annuncio arrivato ieri, appunto, dall'altro ieri, dalla Regione Lombardia, questa ordinanza nella quale si impone l'obbligo di mascherina, ha creato che cosa? Migliaia in fila alle farmacie, alle poste, come scrive il quotidiano La Repubblica a pagina 13, per le mascherine gratis che non ci sono. Sì, forse qualche canale comunicativo non ha funzionato, lo dice l'assessore lombardo alla protezione civile Pietro Foroni, citato da Massimo Pisa in questo pezzo, appunto a pagina 13 della Repubblica. E Foroni che concede: l'annuncio della distribuzione delle mascherine gratis ha creato un po' di agitazione, è vero, e magari l'attenzione a qualche particolare da parte dell'amministrazione è venuta meno. Eufemismi per raccontare una giornata di caos, di attese, rincorse, di spiegazioni da dare alle centinaia, migliaia di clienti in fila ai supermercati, alle poste, dal tabaccaio, dalle edicole, in banca, al banco del farmacista, pronti a ritirare la mascherina gratis, prima di scoprire loro malgrado che non solo la protezione obbligatoria non c'è ancora, ma che arriverà sotto Pasqua, cioè entro venerdì. Mattino. Faccio la fisioterapista al Fate Bene Fratelli di Milano. Ieri siamo andati a chiedere dispositivi di protezione individuale, come si fa da noi, sterilizzazione, ci hanno mandato in direzione, non ce li hanno dati, perché altrimenti se anche noi lavoriamo tanto ci sono troppi dispositivi. E ieri la risposta è stata: non capiamo a cosa serve tutta questa fisioterapia quando tutte le linee guida dicono che è fondamentale, e i pazienti hanno saltato la loro seduta di fisioterapia. Resto basito nel sentire queste notizie sui motivi per cui lo Stato non formalizza degli ordini o non acquista le mascherine. Motivi che sinceramente ancora non ho capito, ma tanto la gente muore e il virus si diffonde. E magari se avessimo queste mascherine, qualcosa o no, in meno avremo. È un po' anche normale che il numero degli infettati di età comprese tra i 40 e i 50 aumenti, perché sono praticamente la fascia più esposta adesso, in quanto molti continuano ad andare a lavorare, eccetera, mentre i più anziani giustamente ormai hanno capito che devono stare chiusi in casa e poi non lavorano. Oh, a quest'ultima domanda non ho una risposta perché non sono un epidemiologo, è una riflessione che accolgo e mi sembra di buon senso, però insomma, magari avremo occasione di parlarne. E la questione delle mascherine, ragazzi, è così. Io sono perplesso quanto voi, perché ce ne stiamo occupando da giorni ed è un balletto imbarazzante. E guardate, veramente non sto in questo caso parlando della regione Lombardia, ma sto parlando in generale di come hanno funzionato e come sono scattati i meccanismi, tanto per l'acquisto, quindi l'importazione dall'estero, quanto per la produzione di queste famose mascherine che dovrebbero essere, insomma, dovrebbero arrivare più o meno dappertutto, dovrebbero avere un costo mediamente accessibile. Mentre invece in realtà tutta quella semplificazione normativa che si voleva fare non sta funzionando come dovrebbe. Anche qua un classico italiano, insomma, inizi, basta. Cioè a un certo punto si decide che si può produrre in quel modo e si produrrà in quel modo. E si faccia in modo che i costi, appunto, di queste mascherine siano accessibili o addirittura gratuite nel caso di regioni nelle quali o di territori nei quali viene imposto l'obbligo di avere la mascherina, o appunto magari un costo accessibile, un costo che si possa sostenere. A proposito di costi che si possono sostenere, dunque la giornata di ieri è stata la giornata dell'approvazione del decreto, di questo nuovo decreto, nuove norme in arrivo per, in questo caso per le imprese. Era un decreto molto atteso dalle aziende, perché il decreto sono le norme che dovrebbero dare la possibilità alle aziende di avere maggiore liquidità, maggiori soldi in cassa, il che vuol dire poi nella sostanza non licenziare, cioè cercare di licenziare il meno possibile, far sì che questa crisi non si trasformi in una crisi non solo produttiva ma anche una crisi occupazionale. Quindi i soldi a quanto pare arrivano, ce lo racconta bene il Sole 24 Ore parlando di 400 miliardi di garanzie, perché quando parliamo di 400 miliardi, perché uno può pensare che lo Stato stanzi di botto 400 miliardi, uno dice questi soldi dove li ha trovati? Sono soldi che sono garanzie pubbliche sui prestiti. In sostanza le aziende, detta molto semplicemente, potranno andare in banca, chiedere un prestito, chiedere un finanziamento, chiedere della liquidità e avere su questa liquidità, su questo prestito ricevuto, la garanzia dello Stato, in alcuni casi fino al 90%, in alcuni casi limitati addirittura fino al 100%. L'altro giorno avete sentito, abbiamo avuto ospite il vice ministro dell'economia Misiani, il quale ci spiegava che dare la garanzia fino al 100%, tranne in alcuni casi sporadici, è molto complicato dal punto di vista normativo, cioè una cosa difficile da fare. Dunque fino al 90%, che comunque insomma ci sembra una discreta quantità. Per quanto attraverso tutta una serie di meccanismi, lo racconta bene, come dicevo, il Sole 24 Ore, le pagine sono 2-3, quelle con tutti i dettagli del decreto, il credito per le grandi imprese e l'export e le garanzie in arrivo da SACE, i prestiti automatici per partite IVA e microimprese fino a 25.000 euro di liquidità garantita e senza condizioni, Per quanto, dicevo, in alcuni casi ci sarà una garanzia al 100% solo per le aziende che hanno ricavi fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800.000 euro, quindi di fatto fino a 800.000 euro. Non serve l'istruttore del fondo sul merito di credito, ma il 100% si ottiene in forma mista, 90% Stato e 10% confidi privati. Ci sono i versamenti sospesi per imprese professionali con il calo di fatturato, ritenute d'acconto sospese fino a luglio, termini congelati per il bonus prima casa, e poi ci sono altri elementi che hanno caratteristiche un po' più industriali e di tutela delle nostre aziende. Arriva un nuovo scudo, lo ha annunciato ieri il Presidente del Consiglio Conte, per le aziende ritenute strategiche, il Golden Power. Che cos'è? La possibilità da parte dello Stato di bloccare delle acquisizioni ritenute ostili, per esempio, dall'estero. Il Golden Power entra a tutti gli effetti tra gli strumenti a difesa dell'economia italiana. Il principio è quello della tutela della sicurezza nazionale. L'alveo di azione dello scudo dunque si amplia a dismisura. Entrano il settore finanziario, banche e assicurazioni, ma anche quello sanitario e l'agroalimentare, così come le piccole e medie imprese considerate strategiche per lo sviluppo del sistema paese. Robotica, semiconduttori, li ha citati ieri lo stesso Conte. Lo strumento si estende anche alle operazioni all'interno dell'Unione Europea quando le acquisizioni sono superiori al 10%. C'è tutta la questione della scuola, anche che qua viene ben riportata da Eugenio Bruno e Claudio Tucci, gli esami semplificati, l'incognita sul rientro a scuola in autunno, tutta la parte fiscale, per così dire, lo stop a IVA, ritenute e contributi, anche oltre i 50 milioni di ricavi. Il pezzo lo firmano Marco Mobili e Giovanni Parente, ci danno un po' un quadro di quello che sta, di quello che sta succedendo. Vi ricordo anche, e qua c'è l'altro fronte interessante, che oggi è una giornata molto importante per le decisioni per quanto riguarda gli eurobond. Come sapete, l'Italia ha fatto partire una battaglia su questo fronte, una battaglia in Europa per poter ottenere, e l'ha fatta partire insieme alla Francia e altri paesi mediterranei, per far sì che l'emergenza, i soldi spesi con l'emergenza, siano finanziati con obbligazioni comuni. Cosa vuol dire? Debito messo in comune con altri paesi, con tutti gli altri paesi europei, comprese Germania e Olanda, che sono un po' riottose su questo fronte, per poter finanziare le spese dedicate alla crisi. Si discute quindi, e a quanto sembra si potrebbe arrivare a una qualche forma di compromesso. Francia e Italia, racconta Beda Romano a pagina 6, vogliono un'emissione comune. In un terribile contesto economico, racconta, i ministri delle finanze della zona euro saranno chiamati oggi a fare passi avanti verso una risposta comunitaria allo shock provocato dalla pandemia influenzale, che sia la più efficace possibile. Gli osservatori più esigenti rimarranno probabilmente delusi dall'esito della riunione in videoconferenza, ma la partita politica è complessa. Tanto l'idea di emissioni congiunte di un nuovo debito provoca acceso dibattito in alcuni paesi dell'Unione Monetaria. Come capite, insomma, oggi avremo qualche segnale sicuramente, ma probabilmente non una decisione definitiva. Mentre, a proposito di prestiti alle imprese, ci comunica Isabella Bufacchi da Francoforte che Berlino garantisce fino al 100% i prestiti alle sue piccole e medie imprese. E però in sostanza è quello che è stato varato ieri dallo stesso nostro governo. A proposito di economia e di personaggi dell'economia, come potrete immaginare, entreremo in una fase piuttosto delicata dal punto di vista della gestione delle politiche del lavoro. Eppure ci racconta Luciano Capone sul Foglio di Mimmo Parisi, lo ricorderete, è il presidente dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Mimmo Parisi, l'uomo voluto da Luigi Di Maio alla guida appunto dell'ANPAL dal Mississippi. Ebbene, di Mimmo Parisi al momento non c'è quasi traccia. Lo racconta Luciano Capone perché Parisi nei giorni scorsi ha presentato il piano industriale triennale dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro. Cosa sono le politiche attive del lavoro? Sono quelle politiche che incentivano di fatto la possibilità per le persone di trovare un nuovo lavoro, eh? Va bene, permettono alle persone, dovrebbero permettere alle persone di trovare un nuovo lavoro o facilitarle in questa ricerca. Ebbene, Mimmo Parisi ha presentato il piano industriale triennale dell'ANPAL 2020-2022 e il piano industriale gli è stato bocciato dal Consiglio d'amministrazione. Consiglio d'amministrazione che è composto da lui stesso, dalla capo della segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e dall'assessore al lavoro della Regione Lazio in rappresentanza della Conferenza delle Regioni. Fattosi bocciare questo piano industriale, nel quale praticamente non c'era traccia di Covid-19, il 27 marzo, il giorno dopo il CDA, ha assunto un altro ruolo nella sua università americana, la Mississippi State University, come Senior Advisor for European Development. Forte del nuovo incarico, racconta Luciano Capone, Mimmo ha salutato e se n'è andato via. Adesso praticamente è quasi impossibile lavorarci. Perché? Perché sta a 7 ore di fuso orario. Il paese, conclude Capone, sta entrando in una crisi economica e occupazionale senza precedenti, nella quale le politiche attive del lavoro saranno fondamentali. L'agenzia che se ne occupa è allo sbando. L'ANPAL è senza un piano industriale, senza idee, senza app, ma con un presidente navigator lautamente pagato dai contribuenti italiani che vive a tempo indefinito dall'altra parte del mondo, dove si occupa degli affari della sua università. Traffico. C'è poi ovviamente molto sulle pagine dei giornali tutto il cuore della questione. Si diceva è aperta una discussione sulla ricostruzione delle responsabilità, ossia come siamo arrivati a questo punto e come ci siamo arrivati in alcune zone del paese e ancor più nello specifico come ci siamo arrivati in alcune zone della Lombardia. E dunque il Corriere della Sera, che già ieri aveva fatto una lunga ricostruzione su quello che era successo ad Alzano e Nembro, ci torna con una lettera. È la lettera di un persona che non si firma, si firma solamente con le sue iniziali, la cui moglie coordina una struttura sanitaria nel territorio bergamasco, e il racconto riguarda l'ospedale di Alzano Lombardo, del quale racconta l'esperienza che ha riguardato la sua famiglia. Cosa succede? Succede che, coordinando questa struttura sanitaria, lei viene a sapere che uno dei suoi pazienti deve essere accompagnato al pronto soccorso. Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio il paziente e l'operatore sanitario che è con lui arrivano ad Alzano Lombardo, ricevono un codice di bassa priorità al triage, dopo un po' di attesa ricevono assistenza sanitaria che non richiede ricovero e vengono dimessi. Domenica 23 febbraio arriva la notizia che il pronto soccorso di Alzano è stato chiuso per Covid. La moglie, allarmata, cerca di avere informazioni sul rischio che l'operatore e il paziente possano aver corso e su come comportarsi per eventuali tamponi ed isolamenti da eseguire. Chiama tutti, numero regionale, 112, ospedale di Alzano. Alla fine riesce a parlare con l'operatore dell'ospedale di Alzano, il quale le dice che non può dare informazioni perché sono coperte da privacy, nemmeno sull'orario nel quale la persona affetta da Covid-19 sarebbe entrata nell'area dell'ospedale. Alla fine, solo con indagini private tra operatori sanitari, ha potuto stabilire che l'accesso al pronto soccorso è avvenuto con largo anticipo rispetto a quello dei pazienti, riportando serenità nella struttura. Insomma, è un pezzo, no, di questo racconto che piano piano si va creando su quello che è successo tra Alzano e Nembro in quei giorni che hanno portato ai giorni drammatici di oggi, e del quale ci riporta qualche altro elemento Maddalena Oliva sul Fatto Quotidiano a pagina 5, dove nella ricostruzione di quelle ore difficili c'è il momento nel quale, tra il 2 e il 3 marzo, si iniziano a vedere le camionette della polizia e dell'esercito intorno a questi due paesi. Perché c'è un momento nel quale questo avviene, c'è un momento nel quale sembra imminente, lo ricorderete perché lo abbiamo raccontato anche da questi microfoni, sembra imminente l'attivazione di una zona rossa in quell'area appunto della Bergamasca. È il 5 marzo. Vengono avvistati all'imbocco della bassa Valseriana centinaia di agenti, circa 150 carabinieri, 100 poliziotti, decine di militari. Li abbiamo visti fare sopralluoghi in giro per le nostre strade, hanno iniziato a girare le foto sui social e le voci si sono subito rincorse, racconta al Fatto Claudio Cencelli, sindaco di Nembro, una delle due cittadine al centro del contagio in Lombardia. Il giorno stesso, seguendo la cronologia degli eventi ricostruiti da Palazzo Chigi, dopo aver ricevuto tra il 2 e 3 marzo una prima nota da parte dell'Istituto Superiore di Sanità a fronte della richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute di un parere più approfondito, eccetera, eccetera, l'Istituto Superiore di Sanità risponde con una nota scritta nella quale dice che si rende opportuna l'adozione di un provvedimento per inserire questi comuni nella cosiddetta zona rossa. Ed ecco arrivare carabinieri e poliziotti, tanto che l'Eco di Bergamo il 6 marzo titola arriva la zona rossa. Poi cosa succederà? Lo sappiamo che poi la zona rossa viene estesa all'intera Lombardia, però come sapete, come avete capito, senza quelle regole così stringenti, no? Che erano state approvate per Codogno. Insomma, è un pezzo di questa ricostruzione che piano piano andrà a comporsi. C'è tutta la questione delle residenze per anziani. Sandro De Riccardis sul quotidiano La Repubblica ci porta a pagina 4 a Trevisago, dove il sindaco, che è anche direttore sanitario alla ASL a Coquio Trevisago, Daniele Centrella, sindaco ma anche direttore sanitario alla ASL Verbano Cusio Ossola, scrive lettere alla regione. E perché? Perché all'interno di una struttura sanitaria per anziani che si chiama Sacra Famiglia ci sono 65 contagiati su 160 ospiti, la metà con febbre e difficoltà respiratorie, 9 più gravi con necessità di ossigeno, un deceduto positivo. Il focolaio di Covid-19 è solo in una delle 23 residenze private della Fondazione Onlus, dove aveva svolto i servizi sociali l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. È un caso emblematico del virus che si insidia silenzioso nei luoghi abitati dalle persone più fragili e che si diffonde se non trova barriere. Cos'altro dai giornali di oggi? Insomma, trovate molti elementi naturalmente su ancora questo tema dei test sierologici. Ne abbiamo parlato prima alle 6:30, i test, quelli che permetterebbero di stabilire un certo grado di immunità e che quindi consentirebbero la ripartenza. Pagina 13 del Corriere della Sera, pronto il primo test italiano per la patente di immunità, arrivato dal Policlinico San Matteo di Pavia con il gruppo Diasorin e costa meno di 5 euro. E però c'è un grande dibattito, come avete sentito, tra virologi, infettivologi, su quanto siano affidabili effettivamente questi test. Ci porta qua anche il Messaggero a pagina 9 con Marco Conti e Cristiana Mangani, passaporto per gli immunizzati, analisi su chi fa lavori strategici. Quindi qua è più il lato del piano del governo, insomma si ragiona esattamente su questi test sierologici per arrivare a capire chi possa avere un po', come diceva il Veneto, che in questo senso è stato precursore, un po' come appunto ha stabilito, no? nel piano del presidente della regione Zaia, appunto, dare una sorta di patente di immunità. Molto trovate sulla scuola, a partire dal quotidiano nazionale, pagina 5, che ci racconta che sul fronte delle lezioni sul web c'è mezza Italia tagliata fuori perché un terzo delle famiglie è sprovvisto di computer o tablet. Maglia nera al mezzogiorno, dove la percentuale sale al 41,6%, sono i dati Istat diffusi ieri. E c'è anche un tema, come ben sapete, di connessioni. Lavorare in remoto oppure studiare online facendo attenzione attraverso un PC, cose che dovrebbero essere alla portata quasi di tutti, ma in Italia, ci racconta appunto il quotidiano nazionale, evidentemente non lo sono, e quindi ci rappresenta un po', no, quelle che sono le difficoltà anche per tutti questi studenti. A chiudere, che cosa abbiamo? Andiamo a recuperare la stampa, va, perché qua c'è un altro tema che ha a che fare con la riapertura delle aziende, ancora una volta. Le aziende strategiche e come sta diventando problematico gestire la questione per i prefetti. Teodoro Chiarelli lo riassume benissimo in un pezzo che inizia a pagina 2 e finisce a pagina 3, gira su pagina 3, nel quale ci racconta di migliaia di aziende pronte a riaprire, che servono a garantire i beni essenziali, e sulla quantità di richieste che stanno arrivando ai prefetti in queste ore. In provincia di Padova ieri hanno riaperto 139 aziende, in quella di Treviso sono 1440 le aziende autorizzate dalla prefettura a lavorare, più del 90% di quelle che avevano presentato domanda, e 400 a Belluno. I sindaci storcono il naso, i sindacati parlano di una aggiramento del decreto di sospensione delle attività, e però ci sono tutta una serie di aziende che, appunto, pensate, un'azienda porta qualche esempio, la Maschio Gaspardo, che produce trattori e macchine agricole e che serve per l'agricoltura, a Campo d'Arzego, la Pavan di Galliera, che realizza macchine per la pasta. Riaprono due reparti delle acciaierie venete, finiture e spedizioni, anche qua ovviamente può servire di supporto ad altre aziende. Oh, abbiamo ancora 20 secondi, 30 secondi, solo due cose rapide. I tedeschi stanno ripartendo con il campionato, ce lo racconta la Gazzetta dello Sport a pagina 21, quantomeno ci stanno pensando, la Germania in campo, il Bayern è tornato ad allenarsi ieri, corse, palloni e tamponi. E con quella che con uno stereotipo definiremmo l'organizzazione tedesca, i primi test, corse, palloni e tamponi, appunto la Bundesliga, con i club tedeschi pronti a ripartire e giocare a maggio grazie a delle task force sanitarie per poter ripartire. A chiudere il quotidiano nazionale, pagina 17, le escort in crisi, vogliamo il bonus di 600 euro. Ci sentiamo tra poco.